Ti ricorderai di me, ci tocchiamo e poi fuggiamo via, via, via, via, sul pavè che non c'è, come a Taranto a Parigi, cerchiamo di capirci, siamo fatti di probabili certezze, sta a vedere, poi non c'è, poi non c'è, siamo folla nella notte. Siamo abiti diversi, tentativi di risposte, ma inutili perché. Dimmi che ti amo, dai, dai, dimmelo, dai. Dimmi che ti amo, dai, dai, dimmelo, dai. Dimmi che ti amo, dai, dai, dimmelo. Dimmi che mi ami, dimmelo. Dimmi che mi ami, dai, dai, dai. Dimmi che ti amo, dai, dai, dimmelo, dai. Dimmi che mi ami, dai, dai, dimmelo. Dimmelo, dimmelo. Ci incontriamo all'Hotel Taras. Io ti aspetto nella hall. Tutto quanto profumato, tutto quanto pettinato, con lo sguardo alla James Brown, come a Bari, a Dublino. Il coraggio di un bambino, un bambino che ti ha chiesto di spogliarti e venire più vicino, e venire più vicino. Sono quello che tu vedi, sono questa faccia stanca. Abbracciamoci più piano, dai, dai. C'è un sax in lontananza. per dirmelo. Dimmi che ti amo, ci incontriamo all'hotel Taras. Dimmelo, dimmelo, dai. Dimmi che ti amo, dai, dimmi, dimmi che mi ami, dai. Dimmelo, dimmi che mi ami, dai. Dimmelo, dimmi che mi ami, dai. Dimmi che ti amo, dai. Ci incontriamo all'hotel Taras. Dovrebbe essere da queste parti, più o meno. Prima i sensi erano diversi, vabbè. Un hotel ci sarà da qualche parte. C'è sempre un hotel. Nella vita dei musicisti, dei musicanti, che li ospiteranno.